qui su questo capitolo 9 di Marco, versetto 14-29, io che sono esorcista non posso tirarmi indietro dal parlare, perché questo è un brano tipico citato da diverse persone anche che hanno studi, che dicono, hai visto, questo è un tipico caso di epilessia, perché come viene descritto è chiaro che è epilessia. E qui si dice che Gesù ha liberato dal demonio. Probabilmente ai tempi di Gesù si confondeva la malattia con le possessioni demoniache. E questo è un modo di parlare di coloro che sono contrari a credere all'esistenza di Satana e al suo intervento sulle persone. Studiosi che sono aperti invece anche a questa visione dicono, può essere un caso di epilessia, non è detto. Io come esorcista ho visto queste scene anche a persone possedute avere schiuma alla bocca, gridare, torcersi, girarsi per terra, rotolando, quasi strisciando, quasi come un serpente, ed erano persone non epilettiche, persone possedute. Tuttavia noi vediamo che Gesù interviene sempre in questi casi perché lui sa che il male, la malattia e il maligno hanno la stessa radice, mal, mal, mal. E interviene il Signore per insegnarci che non possiamo sbrigativamente escludere l'aspetto demoniaco. Tra l'altro c'è della letteratura nostra in cui Satana avrebbe detto ad alcuni esorcisti una frase del tipo, ma io vi ho riempito i manicomi, cioè io ho fatto trattare come pazzi persone in cui invece io agivo anche, probabilmente in tutte e due le maniere. Detto questo, io mi fermo sulla frase di Gesù. Questi demoni non si possono scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Allora, intanto Gesù li chiama demoni, non li chiama malati. E io credo alla parola di Gesù. E poi questa parola non si possono scacciare se non con la preghiera, io la allargo ad altri esempi che voglio fare. Avete mai sentito dire che una persona che si fa fuori tutto ai giochi ha il demone del gioco? Io credo poi che tante persone che si lasciano prendere dalla droga, dalle sostanze, io mi dico, o sono fuori di testa, o sono sciocchi e non capiscono, oppure lo sanno bene dove conduce questo, eppure si buttano in braccio alla droga, alle sostanze, all'alcol. Certamente c'è di mezzo qualcosa di psicologico, ma certamente c'è di mezzo anche Satana, che in alcuni esorcisti ancora ha detto il suo scopo è distruggere l'uomo e distruggere il mondo. Concludo invitando tutti noi a crescere nella preghiera. Tante situazioni si risolvono anche andando dallo psicologo, certo, si risolvono magari anche andando dall'esorcista a ricevere benedizioni, certo, ma tante situazioni si risolvono con le orazioni delle mamme. Si risolvono con l'insistenza delle mamme, molto più che dei papà. Quante volte io chiedo: Signore, ma lei prega? Certo. E suo marito? No, mio marito non crede né a questi fenomeni e neanche crede alla preghiera. Non dimentichiamo mai questa frase, amici. Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Certo, se poi una persona è esclusivamente malata e gravemente, e magari anche per ereditarietà, lì Satana non c'entra, lì c'entra proprio la malattia. E purtroppo assistiamo, magari ne conosciamo anche tra i nostri parenti, persone che non escono più da questo e purtroppo, come dice il Vangelo, alcune volte cade nel fuoco, cade nell'acqua. Io conosco diverse persone che si sono tolte anche la vita. È un grande mistero questo, amici. Certamente noi siamo chiamati ad affrontare con tutte le scienze umane, con tutto l'aiuto dei sacerdoti e della Chiesa e degli esorcisti. Ce ne sono così pochi di esorcisti. Ma siamo chiamati anche a pregare. A pregare, a pregare, e non dimentichiamo che l'Eucaristia, il Santo Rosario e la confessione sono le armi più forti per la liberazione delle persone attaccate dal maligno.